Hey, brother, escucha lo que tenemos preparado para nuestra gente. Aquí tu pi tu tu pi fu fu pi fa, aha, aha, a pi tu pi tu, a chigi pigi pigi migi nigi migi tu. Tu viste caste, viste da pedisto, tutti vi davi di vi dove ti sei visto. Uvu dava, dis dava di uva, divi davi divi divi divi divi da. Apa, a pi pi pi pi di fa, a chi pi di chu pi di chu, chu pi di chi, pi pi di babi di papi fa, ba ba ha ha, a di pi papi fa. Vista, vista, vista da que tu vida. Vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, Gagi kako, ibishi pipi, aminama pipi, alifata haba, abiji bate pipi. Pipi, visti, visti, vesti da per te dietro, per te sletto da per te dietro, per te dietro da per te visto. Visto, basta, e vento basti visto, e per visto basti visto, e per te visto basti visto. Vete,